l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, ben ritrovati all'altra Europa in questa puntata particolare. Poi scopriremo il perché, cioè ve lo anticipo, l'ultima puntata, poi insomma ci saranno i saluti, ma anche in questa ultima puntata racconteremo l'Europa delle possibilità e delle opportunità, l'Europa delle storie, l'Europa dove i protagonisti siete voi, sono i vostri progetti, le vostre iniziative. Come sempre, chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook, lì potrete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Radio24.it è il nostro sito, lì invece potrete riascoltare la puntata e scaricare il podcast. Queste sono tutte le istruzioni, si parte! Apriamo questa puntata parlando di economia circolare, lo facciamo celebrando il primo anno di un progetto, si chiama Retrace, questo progetto che vede coinvolte Francia, Spagna, Slovenia e Romania e ovviamente Italia, con il Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design che lo coordina. Diamo il benvenuto alla responsabile scientifica Silvia Barbero del Politecnico stesso. Buongiorno Barbero, buon sabato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, un anno di progetto, avete fatto un po' il punto di quello che è successo in questi 12 mesi, però partiamo dalle definizioni. Che cos'è l'economia circolare? Allora, l'economia circolare in pochissime parole è una nuova approccio, diciamo, all'economia che è sempre stata lineare, in cui la produzione veniva vista come lo sfruttamento delle risorse in modo da ottenere dei prodotti che andassero sul mercato e venissero venduti il più possibile, sì, in modo estremamente lineare, senza tenere in alcuna considerazione gli scarti che in questa filiera produttiva venivano prodotti, mentre con l'economia circolare si dice ok, ma noi non guardiamo solo al prodotto finale che poi andiamo a vendere, ma sì, cerchiamo di guardare anche tutti gli altri scarti in modo da valorizzare e ottenere una valorizzazione anche da questi. Diciamo che questo è un po' l'assioma di base, mm-hmm, a cui si appoggiano, diciamo, tre paradigmi, tre principi fondamentali, che sono: uno, quello appunto di riscoprire i materiali di scarto non come rifiuti, mm-hmm, ma come risorse. Sì. Il secondo è andare a capire dove il prodotto possa eventualmente essere sostituito dal servizio, sì, quindi anche una certa smaterializzazione dei prodotti, cercare di non concentrarsi proprio solo sulla parte materica, ma anche immateriale del prodotto. E il terzo, avere un'attenzione particolare sui materiali che hanno il rischio di finire troppo in fretta o di essere smaltiti troppo in fretta, a favore invece di materiali e prodotti più durevoli sul lungo periodo. Perfetto, quindi valorizzare i rifiuti, gli scarti, essere lungimiranti nella scelta appunto delle materie prime, tutto questo per una sostenibilità ambientale ma anche economica ovviamente. Retrace di cosa si occupa nello specifico? Allora, Retrace si occupa delle politiche regionali, sì, affinché le singole regioni europee possano attuare e pianificare dei piani regionali d'azione che favoriscano le aziende e le realtà territoriali che vogliono andare verso l'economia circolare e quindi spostare il loro approccio verso la circolarità invece che la linearità tradizionale che abbiamo visto fino adesso, e con gli effetti che ben conosciamo sulle economie internazionali. In questo primo anno di lavoro, di progetto, avete fatto soprattutto, immagino, analisi e ricerca? Esatto, il primo anno di progetto si è concentrato su due azioni principali. Una, diciamo, di rilievi olistici, come sì, li chiamiamo noi, in modo forse un po' accademico, che sono in sostanza i rilievi dello stato dell'arte delle regioni coinvolte, uh-huh, per andare a individuare quali sono le potenzialità di queste filiere produttive sui singoli territori che hanno degli scarti effettivamente promettenti, okay, e individuare quali sono su ciascuna regione dei policy gap, quindi perché le attuali politiche regionali non sono riuscite ancora a incentivare queste attività. La seconda grossa attività svolta in questo anno è, diciamo, la parte di exchange of experience, scusate, quindi uno scambio di esperienze tra le cinque regioni coinvolte, mm-hmm, più due altre regioni europee particolarmente avanti e significative sulla circular economy, che sono l'Olanda e la Scozia. Quindi abbiamo organizzato 7 field visit, in sì, realtà l'ultima sarà a settembre in Scozia, tutte le altre 6 le abbiamo già fatte in questo primo anno di progetto, in cui si vanno a vedere proprio nelle singole regioni le buone pratiche che sono state attivate sul territorio, certo, insomma anche le buone pratiche vengono messe in circolo, che poi è uno degli obiettivi principali di questi progetti. interregeurope.eu/retrace è il sito per tutte le informazioni. Grazie Barbero e buon lavoro. Grazie mille. Salve. A voi. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Concorso di cortometraggi Green Go. Siete amanti del verde e della natura e avete una passione per la documentaristica? CEE Web for Biodiversity, rete europea delle ONG per l'ambiente, lancia il concorso annuale di cortometraggi Green Go 2017. Sono invitati a partecipare tutti coloro che abbiano realizzato cortometraggi su temi legati a natura, ambiente, agricoltura, economia circolare e sostenibilità in Europa. Scopo del concorso sarà promuovere corti che sensibilizzino gli spettatori sulle tematiche ambientali e propongano soluzioni creative. Potrete concorrere per 3 categorie: Build Green, Live Green, sulle infrastrutture verdi, The Last Day on Earth, sullo sviluppo sostenibile, e Your Europe in 2050, sul futuro dell'Europa. Le candidature dovranno essere inviate entro il 1 ottobre 2017, seguendo le istruzioni indicate sul sito greengofest.eu. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presento l'altra Europa. sono note che conosciamo, quelle con cui riapriamo l'altra Europa. Questa è la musica dell'European Spirit of Youth Orchestra che abbiamo conosciuto lo scorso anno e quest'anno, sempre insieme alla voce narrante di Paolo Rumiz, sono protagonisti di Tamburi di Pace 2.1. Diamo il benvenuto a Paolo Rumiz per conoscere nel dettaglio il progetto. Ciao Paolo! Salute a voi, piacere sentirvi. Allora, oggi è una giornata importante perché inizia... Sì, stiamo provando per la prima del nostro tour del 2017, infatti sono qua immerso nelle prove alle capanne di Marcarolo in Piemonte, quasi al confine con la Liguria, alle spalle di Genova. Fantastico. Che cos'è Tamburi di Pace? Tamburi di Pace è una cosa che è nata 3 anni fa da un incontro tra un maestro di musica e uno scrittore di frontiera, cioè Igor Coretti Curet e il sottoscritto, figli della stessa frontiera, con la stessa sensibilità europea, di lingue diverse, lui sloveno, io di lingua italiana, e abbiamo deciso di metterci insieme le parole e la musica per narrare questa Europa che sembra non trovi dei narratori all'altezza della situazione politica difficile in cui si trova. Tante voci diverse, tanti strumenti diversi di tanti paesi europei. So che l'orchestra, il concerto è una parte importante, ma ancora più importante la parte di preparazione di questo percorso. Beh, diciamo che noi partiamo un po' avvantaggiati perché siamo ancora poco conosciuti, è qualcosa che sta crescendo molto bene. Quest'anno facciamo una tournée che arriva fino al profondo sud d'Italia dopo un inizio sulle Alpi e poi con una grande snodo a Roma dove suoneremo all'Altare della Patria. Ma la cosa bella è questo assemblaggio di ragazzi che arrivano da 12 nazioni diverse, 84 ragazzi pieni di vitalità, di energia, che te ne tolgono tantissima, ma te ne danno altrettanta per la gioia che tu provi assistendo all'innocenza di questa loro, e alla bravura anche di questa loro esecuzione. Ecco, avrei tante di quelle cose da dire che non so da dove cominciare. È una cosa che mi ha cambiato completamente la vita. Io sono passato quasi dalla parola scritta alla musica. Quando sono in mezzo a questa orchestra divento uno strumento come gli altri e il mio piacere più grande è quello di tagliare i testi che avevo per dare spazio il più possibile alla musica. La parola deve essere solo una cosa che indirizza. Ecco. E che indirizzi darai? Cosa racconterai con le tue parole? Col tuo strumento, appunto, con la penna? Sì, beh, io ho le corde vocali. Mi viene in mente una cosa che tra le ragazze che abbiamo qui c'è il primo violino, che è una sedicenne di Serba. Sì. A 5 anni non sapeva parlare e ha cominciato a esprimersi per la prima volta attraverso le corde non vocali, ma del suo violino, imparando da zero e imparando a parlare attraverso il suo strumento. È una cosa incredibile. No, io parlerò di cammini, parleremo di cammini in opposizione alla retorica dei muri che sta esplodendo un po' dappertutto. Racconteremo i viaggi di questi ragazzi, fanno delle trasferte interminabili e spesso difficili, con pochi mezzi, per il piacere di stare qua tutti assieme. Pensa che questa orchestra, che nella parte musicale, quindi precedente all'epoca dei Tamburi di Pace, ha vissuto per 20 anni portando in giro musica, soltanto musica senza parole, ha seminato in giro per l'Europa almeno 200-250 bravi orchestrali che oggi sono nelle principali orchestre. Vado dal Teatro Mariinsky di Pietroburgo all'Orchestra Nazionale del Messico, cose così, ecco. Abbiamo qui, per esempio, tra i preparatori degli archi, il primo violino dell'Orchestra di Budapest, che viene da noi solo per il piacere di stare da noi, viene qui con la famiglia a sue spese per seguire questi ragazzi, perché dice qui abbiamo il piacere della musica allo stato puro. Fantastico. Una bellissima estate, ricordiamo, insomma, sono davvero tantissime le tappe lungo il mese di agosto. European Spirit of Youth Orchestra.it, il sito dove c'è l'intero calendario. Andrete anche a Matera, vero Paolo? Sì, Matera è la penultima puntata e poi l'ultima, quella a cui teniamo tantissimo, è Camerino, in piena zona terremotata, perché vogliamo ricordare al paese che anche se non si parla più di terremoto, il problema rimane e non voglio trovarmi di fronte al cuore del paese desertificato. Quest'anno abbiamo per la prima volta nell'orchestra tre asiatiche, cioè tre ragazze libanesi, che abbiamo reclutato grazie all'aiuto di un'organizzazione non governativa che si chiama ABSI di Milano, ci ha dato le borse di studio perché queste ragazze potessero venire e ricordare all'Europa che l'Europa è figlia dell'Asia, perché nacque a Tiro, nel Libano, e poi fu rapita da Giove e portata in Occidente. Quindi ricordiamo questo destino mediterraneo dell'Europa. Questi tamburi di pace, tamburi di musica, tamburi che risuonano messaggi importanti e che guardano il nostro presente e il nostro futuro. Grazie Paolo, porta il nostro saluto a tutte le musiciste, a tutti i musicisti. Ciao, buona Europa, ciao ciao. Europost-it. Scambio in Slovacchia sulla diplomazia culinaria. Hai tra i 18 e i 25 anni e sei appassionato di cucina, nuovi sapori e gusti etnici? L'Associazione Scambi Europei promuove lo scambio culturale Erasmus Plus Culinary Diplomacy sul tema dell'alimentazione come strumento di dialogo interculturale. Dal 3 all'11 settembre nella città di Prešov i partecipanti potranno scoprire altri paesi, tradizioni e cucine tipiche in modo da promuovere l'integrazione sociale e la solidarietà. I giovani partecipanti avranno anche la possibilità di partecipare al Festival del Buon Gusto di Prešov, che ogni anno conta 12.000 visitatori. Informazioni e modalità di iscrizione all'indirizzo scambieuropei.info. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go, and knock on us so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Oltre 500 attività individuate in Europa, di queste 160 sono in Italia. Sono alcuni dei numeri della prima mappa europea dell'economia solidale, si chiama SUSI, la andiamo a scoprire insieme con Maria Rosa Iannella, responsabile della mappatura per Cospe Onlus. Ciao Maria Rosa, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico e beh, salve a tutti gli ascoltatori. Chi è o cos'è SUSI? Allora, SUSI è il nome che abbiamo scelto, diciamo in maniera anche un po' scherzosa e divertente, per un progetto promosso dall'Unione Europea che è coordinato dall'ONG Cospe Onlus in partenariato con ben 25 soggetti europei, quindi altre 25 associazioni e ONG sparse per l'Europa. E attraverso questo progetto appunto abbiamo voluto promuovere un cambio di paradigma per quanto riguarda l'economia tradizionale, e siamo andati lungo tutti i nostri territori, quindi sono mappati ben 46 territori in Unione Europea, a cercare che cosa fosse l'economia sociale solidale. Che la definiamo come? Ci puoi fare qualche esempio? Allora, intanto vorrei un po' spiegare che per economia sociale e solidale si intendono tantissime tipologie di attività. Infatti noi nel cercare di mapparle ci siamo trovati dagli ecovillaggi a, non so, pratiche di agricoltura sostenibile, casa delle agricolture, distretti agricoli, piuttosto di co-working e co-habitat. Quindi è un po' tutto ciò che lega insieme l'innovazione, che lega la solidarietà tra le persone e che punta proprio ad un'economia più sostenibile per l'ambiente e per le persone. Mm-hmm. E 160 su oltre 500 sono italiane, perché in Italia appunto c'è uno sviluppo maggiore di questo tipo di economia, o è solo perché la mappatura è stata fatta con più attenzione nel nostro paese? Ma intanto questa è una mappatura ongoing, non è assolutamente finita e il progetto durerà ancora per poco meno di un anno. e quindi insomma questo è stato un tanto un inizio, e ovviamente in Italia c'è un bel fermento da questo punto di vista, e quindi insomma le mappature sono state tante, però anche negli altri territori i risultati insomma sono stati diciamo notevoli, e spero che insomma continueranno a crescere. Le attività sono veramente svariate. Io ora giusto vorrei citarne un paio diciamo italiane, perché insomma sono quelle un po' più affezionate, forse anche quelle un po' più caratteristiche. Una proprio in house a Bologna, perché una delle sedi anche del COSP è appunto la sede di Bologna, e vorrei citare Kilowatt, che Kilowatt è praticamente era uno spazio pubblico abbandonato che è stato preso in gestione e per circa una decina d'anni, e lì è nato proprio un hub di innovazione sociale dove vengono fatte e svolte diverse attività. Ci sono proprio delle serre dove effettivamente si coltiva, e dove sono stati attivati anche dei corsi per bambini volti anche proprio all'educazione, all'agricoltura. E poi vengono fatti invece anche corsi di formazione, proprio un incubatore. E quindi questo è diciamo un punto di riferimento anche della società bolognese, per esempio. Cambiando proprio invece sia location che argomento, vi porto in Puglia, dove diciamo è nato proprio il distretto dell'economia sociale e solidale, ed è insomma un contesto proprio in fermento che si rivolge un po' alla provincia di Lecce, ma si dirama un po' per tutta la regione, e sono nate le cosiddette case dell'agricoltura, quindi noi le abbiamo individuate come buone pratiche, dove appunto si condividono pratiche di agricoltura sostenibile. Perfetto. E un sito internet per vedere e accedere a questa mappa? Allora, certo, il sito internet è solidarityeconomy.eu. Perfetto. E trovate la mappatura con tutte le realtà, che appunto in Italia sono più di 160, e le spiegazioni, nel senso anche che cos'è per noi l'economia sociale e solidale sotto i vari rami. Prima non ho citato insomma il ramo del fair trade. Sì, beh, certo, sono tanti gli ambiti, lì c'è proprio la possibilità di sfogliare che è anche la creatività che c'è nel sociale. Grazie davvero, complimenti Maria Rosa per l'ottimo lavoro. Ciao. Grazie. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi torniamo qua con l'altra Europa. L'altra Europa. I'm a living sunset, lightning in my bones. It pushed me to the edge, but my will is stone. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Adesso due storie di chi in questa estate ha scelto l'Europa per camminare, per viaggiare, per muoversi, per testimoniare anche la memoria, per testimoniare nuovi stili di vita. Partiamo dal primo progetto che vede protagonisti un gruppo di ragazzi, sono cinque giovani della chiesa valdese di Pinerolo che sono in cammino da Saluzzo a Ginevra per rivivere un esilio del che è datato 1687, una storia antica che però ha ancora tantissimi, ahimè, elementi legati alla contemporaneità, alla stretta attualità. Diamo il benvenuto a uno di loro, è Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao a tutti. Ciao, buon sabato. Come state intanto? Ah, bene. Siamo stanchi, ma bene. 350 chilometri quelli che separano Saluzzo da Ginevra. Cosa vi ha spinto a partire? Ma intanto la voglia di fare un viaggio, perché è sempre bello fare un viaggio in compagnia, soprattutto con amici, ma anche appunto il fatto di ripercorrere un percorso con una storia importante dietro, non solo per noi forse, ma anche proprio per tutto il territorio che separa proprio Saluzzo da Ginevra. Una storia non così nota, vero? No, esatto. Appunto, lungo il percorso ci capita spesso che qualcuno ci chieda cosa state facendo, e quindi noi andiamo un po' a raccontare questa vicenda qui, appunto, prima della persecuzione dei Valdesi, poi della loro incarcerazione in varie carceri nel Piemonte, tra cui proprio Saluzzo, e poi del loro esilio forzato, quindi scortati dai soldati fino in Svizzera. Quindi è una storia che ci tocca molto, ma che ci ricorda proprio qualcosa anche di molto moderno, purtroppo. Certo. Direi. Storia che voi avete tradotto anche in uno spettacolo, Il nostro viaggio, Il nostro esilio, spettacolo che proponete durante il cammino? Sì, esatto, perché come scopo ci siamo prefissi anche quello di, insomma, far conoscere il più possibile questa storia, queste vicende e anche forse questo stesso percorso. Quindi in alcune tappe del nostro percorso andiamo a fermarci e presentiamo alle comunità locali, ai paesi, alla popolazione, questo spettacolo che parla un po' di questa storia appunto della persecuzione, naturalmente un po' romanzata, insomma. Certo, ricordiamo che non è un pellegrinaggio, neppure un cammino spirituale, proprio voglia di testimoniare anche col sudore una memoria. Esatto, quindi non andiamo alla ricerca di niente di religioso né di spirituale, ma è proprio semplicemente come fosse un cammino della memoria. C'è il treno della memoria, noi facciamo un cammino. Tra l'altro un cammino che fa parte degli itinerari culturali europei, perché il tratto che fate è proprio un tratto di questa, la strada dei Valdesi e degli Ugonotti, dal 2013 inserito dal Consiglio d'Europa tra gli itinerari culturali europei. Esatto, quindi appunto ha anche un doppio valore. Quindi se l'Unione Europea ha deciso di riconosciuto un carattere culturale a questo itinerario, secondo noi è ancora più importante far sì che sia più conosciuto possibile. Lestradeivaldesi.it è il sito per conoscere l'itinerario. Invece si può camminare almeno virtualmente con voi attraverso Facebook? Sì, certo, attraverso la pagina proprio delle strade dei Valdesi, lì pubblichiamo tutti i nostri aggiornamenti, foto, video, dirette Facebook, insomma, ci potete seguire quasi come se foste con noi. Ok, non vi lasciamo soli. Grazie davvero Giacomo, salutaci i tuoi compagni di viaggio, che ricordiamo sono Daniele, Federico, Anna e Chiara, età media più o meno 22 anni. Buon viaggio, ciao. Grazie mille, ciao. Ciao, ciao. Europost-it. Parlamento europeo cerca traduttori. A tutti i traduttori. Il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa e le altre istituzioni dell'Unione sono alla ricerca di diversi traduttori professionisti da tedesco, francese, italiano e olandese. Sono richieste la conoscenza di almeno 3 lingue ufficiali dell'Unione europea e una qualifica di studi corrispondente alla formazione universitaria. È possibile partecipare al bando accedendo al sito dell'EPSO epso.europa.eu e compilando il form entro le ore 12 del 5 settembre 2017. The lights go on, the lights go off, when things don't feel right, I'll run down like a tired dog, licking his wounds in the shade. E continuiamo ad attraversare l'Europa in questa estate, ora non camminando ma pedalando. Lo facciamo con una ricercatrice, una dottoranda dell'Università di Bologna, che proprio oggi è partita per il suo viaggio, 4.200 chilometri da Bologna fino a Capo Nord. Diamo il benvenuto a Mara Magni. Ciao Mara. Bene, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Sono, insomma, sono le prime pedalate, quindi sarai fresca. Sì, insomma. Insomma. Cycling to North Cup, questo è il nome del progetto, anche il nome della pagina Facebook per chi volesse seguirti e seguirvi, perché non sei sola, con te c'è un collega con cui appunto condividete questa avventura, che non è solo un viaggio in bicicletta, vero? No, esattamente. Io sono appassionata di bici da tanti anni, ho iniziato circa 10 anni fa e per questo mi è venuta l'idea di voler fare un viaggio, insomma. Ma poi ho pensato, ma perché non coniugarlo anche con un progetto più ad ampio raggio, quindi mandare un messaggio a chi vuole seguirci sull'importanza della mobilità sostenibile, sì, e del rispetto dell'ambiente. Infatti al momento sono dottoranda presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna e ho coinvolto proprio l'università. L'idea che ci è venuta è quella di creare un diario di viaggio che passi attraverso le principali università europee, quindi Innsbruck, Monaco, Copenaghen, Stoccolma e Turku. Sì. Cercare di appunto creare questa linea verde attraverso queste università e cercare di... quello che mi piacerebbe a me, il mio scopo è di portare a casa una specie di documentario, mm-hmm, in cui si racconta un pochino cosa si fa nei vari centri. Quindi tu pedalerai da un ateneo all'altro proprio e andrai a incontrare ricercatori e docenti per capire un po' qual è lo stato dell'innovazione, lo stato delle buone pratiche per quello che riguarda l'energia, i consumi e tutto quello che è la sostenibilità. Esattamente. Mm. E infatti sostenibilità, cioè, è un termine che si usa molto ad ampio raggio, no? Che contiene tanti temi al suo interno che vanno da temi umani, quindi del rispetto dei diritti, a temi del rispetto dell'ambiente, dell'aria, della terra, dell'acqua e del risparmio dell'energia. Quindi all'interno di questa parola ci sono veramente tanti settori. Certo, partirai da Innsbruck, che è una università che tu conosci molto bene, tra l'altro. Sì, esatto, infatti forse questa idea è nata anche un po' dall'esperienza che ho fatto all'estero, per la mia tesi magistrale. Infatti ho lavorato all'università di Innsbruck e proprio qua, nel dipartimento in cui sono stata, è nata l'idea della casa passiva. E qui ad esempio mi piacerebbe farci spiegare cosa significa una casa passiva, in cosa consiste una casa passiva. Mm-hmm. Viaggerai con un amico e collega bolognese, Pietro Albomonte, ingegnere, esatto, della Ducati. Lui viene in moto? No, viene in bici anche lui. Ok, pedala anche lui, perfetto. Sì, sì, sì. Esatto, ci siamo conosciuti nei trail un anno fa e abbiamo scoperto di abitare vicino, praticamente qua a Bologna, e da lì ci siamo sempre allenati un pochino la sera, il weekend insieme, diciamo, uh-huh, e quindi c'è nata l'idea, ma perché non lo facciamo insieme il viaggio, visto che comunque ci saranno momenti di difficoltà e avere qualcuno che si conosce bene vicino fa molto piacere. 4200 km in 26 giorni, quindi le tappe anche abbastanza lunghe, più il tempo appunto da destinare a queste chiacchierate per raccogliere materiale e suggestioni. E vi ricordo la pagina Cycling to North Cup per avere così informazioni. Immagino ci saranno anche fotografie e video, quindi la possibilità di pedalare, in questo caso virtualmente, sempre con voi. Grazie Mara, buon viaggio. Grazie mille a voi, ciao. Buona giornata. Ciao ciao. Noi adesso ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando e poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. IIT cerca ricercatori per progetto Minded. A tutti i giovani scienziati, l'Istituto Italiano di Tecnologia cerca 24 ricercatori postdoc da tutto il mondo per partecipare a un programma di formazione interdisciplinare di 4 anni nell'ambito del progetto europeo MindIt. Il progetto Minded si occupa di formare nuove figure di scienziati imprenditori impegnate nella cura delle malattie del neurosviluppo e coinvolge università e centri di ricerca di altri 9 paesi. Informazioni e modalità di candidatura sul sito del progetto minded-cofund.eu. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presento L'altra Europa. Cosa ne pensi se mettiamo Europa di Sant'Anna? Ecco, questa è la domanda che in questi 7 anni mi sono spesso sentito dire, soprattutto da Miriam Lucchetti, che oltre ad essere appassionata di questa canzone, ma quando era la frutta, quindi quando non si riusciva a trovare nessuna musica, era tardi, il venerdì sera, ok, si buttava su Sant'Anna e vai. Perché? Perché questa musica? Perché è arrivato il momento di salutarci, dopo 7 anni chiude, finisce, termina l'altra Europa e quindi volevamo salutarvi con questa musica che ci ha accompagnato mille volte ed è diventata un po' un tormentone, e poi volevo salutarvi anche ripescando la prima scaletta. Sono andato indietro nel tempo, era il 5 giugno del 2010 quando c'è stata la prima puntata dell'Altra Europa. Parlavamo di Islanda, del vulcano, di un comico diventato sindaco. Avevamo iniziato parlando di questo argomento e chiudevamo invece parlando di cervelli in fuga all'incontrario, quindi di una collega spagnola che era venuta in Italia a fare l'autrice televisiva, lavorava a Ballarò, e l'abbiamo ridisturbata per vedere, per chiudere con lei, tornare appunto a quella prima puntata. Lo facciamo con Mercedes Vela Cossio. Ciao Mercedes. Ciao Federico, buonasera a tutti. Sono passati 7 anni e non c'è più Ballarò, almeno qualcosa è cambiato, vero? Ah, qualcosa è cambiato, adesso c'è di martedì, c'è di martedì. Con Giovanni Floris, quello non cambia. Dove tuttora lavori e insomma ci piaceva chiudere con te, ripercorrere veramente con 2 battute questi 7 anni. Cos'è cambiato in Spagna in questi 7 anni? Guarda, in Spagna devo dire che 7 anni sono veramente passate tante cose, sono successe tante cose. Nel 2010, no? Ricordavi prima che era l'ultima tua puntata, è stato l'estate che Spagna ha vinto i mondiali di calcio, che è la prima volta nella sua storia che vinceva i mondiali. Erano gli anni di Zapatero, erano gli anni dei diritti in Spagna, erano delle copertine dei giornali, il sorpasso della Spagna sull'Italia. Questi sono stati gli anni della delusione, la crisi, è tutto caduto, in Spagna praticamente abbiamo conosciuto gente che perdeva le case, è finito quel sogno che eravamo il primo mondo, che eravamo tutti stupendi, che saremmo diventati tutti ricchi. Adesso ci stiamo un po' rialzando, però diciamo che sono stati gli anni della delusione. Sicuramente quello che è cambiato è l'animo, no? Erano tutti esaltati, adesso sono tutti un po' più ancorati alla realtà. Probabilmente questo è il bilancio di 7 anni spagnoli, sicuramente. Che però insomma non è un bilancio rassegnato, è un bilancio che lascia un po' di speranza. No, in Spagna si rialza sempre, infatti adesso ricomincerà a salire. Io sono convinta che se mi dai appuntamento fra 7 anni ti racconteremo di nuovo come stiamo di nuovo nell'alto, perché sono sicura che Spagna si rialza. Però dico, questi 7 anni sono stati 7 anni di fare i conti con la realtà, quello sicuramente. Okay. Un po' della delusione di un paese, sicuramente. Tu non cambiare numero telefonico, quindi nei prossimi 7 anni. Bravo, infatti qua mi trovi, come poi farà l'altro, mi hai lasciato in televisione e mi ritrovi in televisione, quindi sempre sarò qua. È vero. Invece in Italia cosa hai visto cambiare in questi 7 anni? Guarda, non vorrei essere banale, perché me ne rendo conto che però veramente poco, pochissimo. Qua sembra essere vivere un po' nel giorno della marmotta, fondamentalmente. Io 7 anni fa facevamo le puntate dove parlavamo che avevamo bisogno di meno tasse, bisognava dare dei soldi ai pensionati, la sinistra non trovava il centro, la destra che dilatava sulle alleanze, e se ci penso alla puntata che sto preparando per questi giorni sono identiche, quindi temo che è cambiato molto poco. Forse siamo più arrabbiati, in Spagna sono più delusi, in Italia sono un po' più arrabbiati dopo 7 anni, perché veramente sembra che non è cambiato niente. In questi 7 anni a te non è venuta voglia di tornare in Spagna? No, io ci penso sempre, di una cosa che non è una cosa triste come è, però a me piacerebbe forse un giorno tornare, non vorrei finire i miei giorni in Italia, vorrei tornare a casa mia. Però per ora no, per ora gli do ancora fiducia all'Italia e anche alla Spagna, quindi insomma rimango ancora qua. Grazie Mercedes, grazie per essere stata con noi in questa ultima puntata dell'Altra Europa e grazie per essere stata nella prima puntata dell'Altra Europa. Insomma è stato un viaggio che a distanza abbiamo fatto insieme. Ciao, grazie. Grazie a voi, in bocca al lupo Federico, in bocca al lupo per tutto. Ciao Mercedes. Grazie, ciao. Un altro cavallo di battaglia della nostra playlist europea, legge Miriam, perché questo era sempre era il piano B, quando il piano A, Europa di Santana, insomma ci stancava un po', c'era pronto il piano B, eccolo qua, questo inno alla gioia in versione rock. È il momento dei saluti, un viaggio durato 7 anni e 2 mesi, un bel viaggio in cui abbiamo raccolto una sfida che era quella di fare un racconto diverso dell'Europa, non un racconto critico, non un racconto buonista, non un racconto che omettesse difficoltà o carenze dell'Unione, però a differenza di chi osteggia e basta abbiamo così scelto di raccontare l'Europa delle opportunità e delle possibilità, come ho detto all'inizio di ogni puntata. E per farlo abbiamo dato voce a tanti, tantissimi sconosciuti, cittadini europei, protagonisti di piccoli e grandi progetti che ci hanno narrato cosa sia la creatività, l'innovazione, l'inclusione, la ricerca, l'integrazione, l'accoglienza, la trasparenza e anche la denuncia a volte. Progetti spesso visionari, a volte anche bizzarri e strani, ma sempre vivi e ricchissimi di impegno, passione e tantissime ricadute sul territorio, che poi erano le cose che ci interessava narrare, far emergere. Il viaggio termina qua, ma Radio 24 continuerà a raccontare questa Europa con altre voci e in altre forme, così come continuerà il mio racconto su Radio 24 in altri orari e su altre tematiche. Per adesso l'estate continua con Terra in Vista e da settembre invece ci saranno altre novità. È il momento dei ringraziamenti, partirei con Gigi Donelli che ha supervisionato il programma dal primo minuto e poi insomma tra i tanti, tantissimi, quelli che più ci hanno aiutato. Partirei dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, prima con Lucio Battistotti, poi con Beatrice Covassi. Un particolare ringraziamento a Evelina Jelenkowska, che è capo settore stampa e media, per il suo costante e generoso supporto. Poi l'ufficio del Parlamento Europeo in Italia, l'onorevole Silvia Costa, con cui tantissime volte abbiamo parlato di cultura e creatività, che erano colonne portanti dell'altra Europa, poi gli uffici di Creator Europe e ancora tutti gli sportelli di Eures e Europe Direct, che quotidianamente danno tantissime informazioni su quello che l'Europa può offrire. Un grazie anche a Giacomo D'Arrigo e a Silvia Strada, con loro tutto il team dell'Agenzia Nazionale Giovani, poi Indire per le tantissime interviste sul mondo della scuola e l'Erasmus e con loro gli amici del portale Scambi Europei. A proposito di Erasmus, ISN, Erasmus Student Network, sempre pronti e presenti. E insieme a loro un grazie di cuore anche a tutti i collaboratori dell'Osservatorio Balcani e Caucaso che fanno un lavoro prezioso e delicato. E poi infine la scienza con Massimo Gaudina, responsabile della comunicazione IRC, e a tutte le ricercatrici e ricercatori che sono passati ai nostri microfoni. Poi per ultimo tutti i miei compagni di viaggio, che poi sono state soprattutto delle compagne di viaggio ad eccezione di Giorgio De Luca, che mi ha fatto assistenza durante tante dirette prima di passare il testimone a Claudia Schiattone. Andando a ritroso, Alba Rondelli, con cui il programma è nato, Claudia Carusi, Viola Frifa, Margherita Ina, Katia Marinelli, Silvia Arghini e Miriam Lucchetti. E tutti i nomi che spesso mi sono inventato incrociandole tra di loro nella stanchezza del sabato mattina. Poi ovviamente un grazie a tutti i tecnici, ad Alessandra De Luca che ha letto i nostri post-it e a tutte le persone che sicuramente ho dimenticato. Ecco, insieme a tutti loro l'altra Europa è stata questa Europa. Ciao! L'altra Europa.